Perché è difficile tra uomini lavorare. Lui ti parla di te, lui che sa. Hai cercato di uscire, di ricominciare, sentendoti sempre più stanco. Hai guardato la tua faccia in uno specchio consumato, hai visto la faccia di un altro. Sotto una luce, in agonia, c'era una maschera legata forte a un desiderio d'amore e morte, che di notte ti fa sudare, che di notte ti viene a cercare. Ti scioglie con un gemito e ti cattura, strappa la maschera e si avvicina. Graffia la pelle, brucia le lenzuola, ti fulmina le tempie d'adrenalina. Poi il piacere ti assale come fosse eroina, mentre fuori si stanno ammazzando, che ti spinge ad urlare, che ti scuote, ti invita, nuovo eroe. Adesso vieni, adesso vieni, adesso vieni. Pam pam pam pam, pam pam pam pam, pam pam pam pam, pam pam pam pam, pam pam pam pam, pam pam pam pam. Non impazzire, non ingrassare, non impiccarti, non farti del male, non raccontare cazzate al vento, non raccontarti che essere buoni significa farsi desiderare. Quando ti guarderai allo specchio e sentirai freddo sotto le lenzuola, quando avrai tempo di guardare in moviola le facce che hai bruciato, non sentirti vecchio. Quando avrai capito in quale video hai perso e tutto intorno ai tuoi fantasmi torneranno, bambino, padre, ragazzino, amante, figlio, l'estate, il vento, il cielo e lei l'inverno. Poi il piacere scompare, buonanotte alla vita, mentre un secolo si taglia la gola. La battaglia è finita, pace il culo alla sposa, nuovo eroe. Adesso vieni, adesso vieni, adesso vieni. Pam pam pam.